Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brussellando Maridia ai microfoni di questa ennesima puntata di Brussellando. Quindi benvenuti a tutti i nostri ascoltatori, a tutti coloro i quali stanno terminando la loro giornata di lavoro, i quali ora sono in macchina, ci stanno ascoltando e so che siete in tanti, e tutti coloro i quali invece magari stanno già preparando la cena o coloro i quali invece stanno cenando. Vi auguro una buona serata in nostra compagnia, in compagnia di Maridì e di Brussellando. E questa sera è un'altra puntata molto ricca, una puntata ancora molto musicale, quindi non stupitevi se in quest'ultimo periodo Brussellando ha dedicato molto spazio alla musica, ma questo riflette anche quelli che sono gli eventi che ci circondano e sono molto lieta, di dirlo, sono tutti di matrice italiana, quindi è un bene ricordare anche queste nostre belle qualità di artisti, giacché ce ne sono tanti ultimamente che veramente rallegrano quello che è il panorama musicale italiano. Ringrazio tutti voi, tutti coloro i quali continuano a scriverci a brussellando@gmail.com e a tutti coloro i quali ci propongono quelle che sono le loro opere letterarie e non solo. Quindi stiamo riprendendo, come avrete potuto vedere, ancora in forma ridotta, giacché l'equipe non è al completo, però nelle prossime settimane tutto dovrebbe ritornare così com'era prima. E l'agenda culturale brussellese è straordinariamente ricca, sono tanti gli eventi, dal cinema ai concerti, gli spettacoli, le esposizioni, il teatro, i festival, i numerosi festival. E questa volta vi parlerò anche di un festival dedicato appositamente ai bambini. Quindi ce n'è veramente di tutti i gusti, ce n'è veramente per tutti e anche per tutte le età. Vedo Dani M dall'altro lato del vetro che scalpita. Sentite che la mia voce è un po', è ancora un po' raffreddata, forse perché vengo da un viaggio in Italia dove invece sembrava essere estate, quindi ora risento un po' di questo cambiamento climatico, quindi prima di passare al nostro ospite, propongo una carrellata di eventi e poi intervisteremo l'ospite musicale di questa sera e sono certa che per gli ascoltatori, quelli più attenti, avranno già capito a chi mi sto riferendo e forse queste note musicali che già si possono sentire in sottofondo possono dare un'idea di quello che sarà l'ospite, anzi l'ospite sì, restiamo sul vago, l'ospite di questa sera. A tra poco, restate con noi, Maridì, Radio Alma, Brussellando. Cari amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui in apertura di trasmissione. Vi ho accennato che sono tanti gli spettacoli in agenda di questa settimana. Partirei con uno degli eventi di cui vi avevo già parlato la settimana scorsa, che è il Festival delle Libertà, il Festival delle Libertà di cui avrete potuto vedere sicuramente le affiche in giro per tutto Bruxelles. Siamo al sesto anno in cui il festival si svolge soprattutto al Teatro Nazionale. Sapete che è cominciato tra il 16 e il 25 ottobre e che ha già proposto un insieme di documentari, dibattiti, spettacoli, esposizioni e concerti. Quest'anno il tema è abbastanza forte perché sapete è in linea anche con quello che è il motto del festival stesso, perché si va da un'ambiance conviviale e festiva ad una che è sicuramente volta, dedicata a quella che è la critica della società nella quale viviamo. E quest'anno il tema è obbedire e disobbedire, quindi a chi obbediamo, verso chi teniamo l'occhio, l'orecchio, lo sguardo, lo facciamo per abitudine, lo facciamo invece perché abbiamo paura, chi è che emana poi le regole e come le fa rispettare, secondo quali principi, chi sono le autorità legittime. Insomma, soprattutto in un paese come quello del Belgio, che solo recentemente è riuscito a formare anche un nuovo governo. Quindi questo è il tema del festival e quindi fedele a quelli che sono i suoi impegni, nonché nella continuità di quelle che sono le sue precedenti riflessioni, il Festival della Libertà mette in scena e anche in dibattiti, perché ci sono anche dibattiti, ciò che ci fa obbedire e disobbedire. La programmazione completa è disponibile presso il sito del festival stesso, che è festivaldeliberté.be, dove troverete effettivamente tutto ciò che bolle in pentola. Brevemente, creazioni teatrali, una trentina di documentari internazionali, una quindicina di, scusate, di concerti, e poi tutti i giorni, dopo un film, ci sarà uno spettacolo oppure un dibattito proprio per interrogarsi in tutti i sensi sulle nozioni di obbedienza e disobbedienza. Per quanti volessero saperne di più, potete anche consultare il sito del Teatro Nazionale dell'Egitto, quindi di Bruxelles, dunque Teatro Nazionale Poitiers, oppure consultare il sito del festival, che è il Festival des Libertés. Quindi vi incoraggiamo a partecipare. Questa è l'ultima settimana, tra l'altro, perché il festival si concluderà il prossimo 25 ottobre. Quindi veramente non mancate, perché ne vale la pena. E poi sono sempre colpita dal numero di persone che partecipa, quindi vuol dire che i contenuti sono interessanti e vanno condivisi. Continuiamo, cambiamo argomento, cambiamo veramente percorso, perché passiamo dal percorso dell'obbedienza e della disobbedienza al percorso invece della moda. Sapete che è uno dei temi cui Bruxellando ha dedicato sempre tanto spazio, non fosse altro che il Made in Italy è comunque una delle fonti di ispirazione più importanti e conosciuta un po' nel mondo, proprio per la sua capacità di produrre mode, abitudini, costumi, colori, insomma, la capacità di investire e innovare nell'ambito della moda, sicuramente continua a caratterizzare noi italiani. Questa volta invece vi parlo di Mode Parcours, che invece è una edizione belga che spegne già 14 candeline, quindi per 3 giorni, cioè dal 24 al 26 ottobre. Forse ve ne avevo già parlato, perché è uno degli eventi che mi piace sempre ricordare, perché ci saranno diversi creatori, circa 45, delle notturne, delle performance, dei défilé, degli happening, dei concerti, nonché delle serate. Quindi mi sembra essere sicuramente uno degli eventi più importanti di questa ricca agenda brussellese. Tutto ciò avviene al Place Nouveau Marché au Grand, 22-23 a Bruxelles, e la notturna inizia proprio il 24 ottobre, tra le 18 e il 22. È sicuramente uno degli eventi più importanti per quello che riguarda la promozione della moda d'avanguardia a Bruxelles e in Belgio. Quindi vi suggeriamo, per quanti amano la moda, di, insomma, di passare uno di questi 3 giorni, anche perché la tematica principale del festival, quindi ritornano le tematiche, è quello della cittadinanza, quindi viene sottolineato nell'edizione di quest'anno soprattutto la relazione che esiste tra il creatore e la città. Quindi potete immaginare che una città come quella di Bruxelles sicuramente offre molteplici cittadinanze, già che è una città multiculturale, multilinguistica, dove davvero coesistono tante realtà diverse. Se volete saperne di più, quindi vi invito a consultare il sito MAD Bruxelles, MAD come MAD, quindi non potete sbagliarvi, e sul sito poi ritroverete tutte le informazioni più importanti. Ricordo che alcuni degli eventi sono disponibili anche in inglese, quindi veramente non si pone nemmeno il problema linguistico. Daniele mi facendo dalla regia, quindi vi ricordo che comincia, quindi Parcours Mode comincia il 24 ottobre, comincia già venerdì alle 11 fino alle 22, continua quindi tutto il giorno, invece sabato e domenica in versione ridotta tra le 11 e le 18. Quindi sono invitati a partecipare tutti, e soprattutto tutti coloro i quali amano la moda. E prima di passare la parola al nostro ospite di questa sera, scusate, Maridì avrà anche bisogno di una pausa prima di passare all'ospite, vi ricordo il Festival Internazionale dei Bambini. Quindi ritorna questo evento davvero piacevole, che Bruxellando ricorda ormai già da qualche tempo, che si svolgerà praticamente dal 26 ottobre fino al 2 novembre, quindi una settimana intera, perché tra l'altro, come sapranno tutti i nostri amici all'ascolto, amici con bambini, Questa coincide anche, la settimana prossima coincide anche con le vacanze, penso quasi, quasi per tutti. Il tema invece del festival, vedete che ritornano un po' anche le parole chiave un po' dappertutto, è sauvage, quindi si fa riferimento alla natura ancestrale, agli animali feroci e ai bambini indomiti, quindi ritorna un po' anche l'elemento della disobbedienza. Sapete che il festival è anche chiamato Filemon? E festeggia quello che è il suo ottavo compleanno, quindi praticamente un momento importante per tutti i bambini perché ci sono in programma più di 80 film, corti e lungometraggi di tutti i generi e stili che vengono praticamente, come la buona tradizione brussellese ci insegna, da tutti gli angoli del mondo. Quindi molti dei film del festival saranno anche proiettati al Museo delle Scienze Naturali, perché ovviamente ci sarà anche questo aspetto dedicato alla natura, come dicevamo in apertura, alla natura ancestrale, agli animali feroci e anche ai bambini selvaggi, forse meglio se diciamo indomiti. Pensate che quest'anno ci sarà anche un gruppo, una giuria di bambini indomabili, oserei dire, che giudicherà quelli che sono poi i film, i cortometraggi proiettati durante questa ricca settimana di eventi. Vi consiglio quindi di visitare il sito internet che è Filemon, così proprio come ve lo pronuncio, filemon.be, dove potete trovare tutte le informazioni. Daniele mi dice, sì, i prezzi sono veramente modici, pensate, si va da 6 euro a 4 e poi prezzo per gruppi 4 euro. Comunque sul sito filemon.be troverete tutto, quindi veramente diffondete la parola. Se non avete ancora deciso cosa fare con i vostri bambini in questi giorni, vi consigliamo vivamente di visitare, di fare un salto a Filemon, perché i vostri bambini ve ne saranno assolutamente grati. E quindi, un po' per far riposare la mia voce, che è un po' stanca, anche se tutti mi dicono che la mia voce è cambiata. Non so se sia cambiata, ma probabilmente gli anni, in questi ultimi anni, ho fatto in modo comunque di lavorare sulla mia, stessa voce, mi rendo conto che la tonalità adesso sicuramente è un po' più bassa. Alcuni mi dicono che era meglio prima, alcuni mi dicono che è meglio adesso. Comunque, come la migliore tradizione ci insegna, c'è ancora da migliorare, quindi insomma, Maridì vi promette che non si ferma qui e che continuerà a sorprendervi con tante altre sorprese. Un suggerimento musicale e poi l'ospite di questa. Care amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui. Vi dicevo in apertura di trasmissione che l'ospite di questa sera sarebbe stato un ospite musicale sulla scia di quanto è già accaduto in queste ultime settimane a Bruxellando, e l'ospite che è con noi questa sera è Levante, la quale ci parlerà del suo ultimo album, Manuale di istruzioni. E io sono particolarmente emozionata perché Levante ha una parlantina effettivamente molto molto spedita. Le ho detto quando ci siamo parlate che aveva un po' più l'ardire di una scrittrice, cui sapete Bruxellando è molto avvezzo, piuttosto che di una cantante, il che ovviamente insomma, premia sicuramente anche questo suo successo, che da qualche tempo la vede protagonista sulle scene, sui palcoscenici italiani. Levante è giovanissima, ha origini siciliane, anche se tutta la sua carriera artistica è maturata soprattutto tra Torino e l'Inghilterra, dove pure è stato un periodo proprio alla ricerca di un futuro migliore, come accade, come sapete, a tanti di noi. Levante ama diversi generi musicali, quindi insomma questo è anche, si può sentire anche dalle sue stesse canzoni. E per esempio potremmo solo citarne alcuni: Tori Amos, Amos, Alanis Morissette, Janis Joplin, spero di pronunciarlo bene. Forse non tutti voi che siete all'ascolto conoscete le canzoni di Levante e soprattutto molto, molto nota la canzone Alfonso, che infatti è stata praticamente ha avuto molto successo nel 2013 e proprio questo brano le ha permesso di guadagnare forte successo per un forte successo tra i giovanissimi in particolare. E questa sera Levante proprio qui con noi perché ci racconterà per l'appunto di questo suo nuovo album che si chiama Manuale di istruzione. Quindi, tra l'altro, vi invito veramente magari a consultare YouTube oppure come scopriremo proprio strada facendo che Levante sarà qui a Bruxelles il prossimo, cioè venerdì prossimo, quindi il 23 ottobre. So che quelle sono date, come anche la nostra agenda culturale dimostra, abbastanza ricche, ma se avete un momento e avete voglia di tuffarvi in un mix di generi musicali, in una voce veramente affascinante, beh, allora non mancate, perché giovedì 23 dalle 19 potete incontrare, conoscere la musica di Levante. Quindi un suggerimento musicale proprio da Levante prima di averla qui con noi in studio. A tra poco. Quindi, come dicevamo prima, proprio in apertura di trasmissione, qui con noi Levante, la quale ci parlerà di questo suo nuovo album, Manuale di istruzione, che porterà per la prima volta proprio qui a Bruxelles. Levante, benvenuta a Radio Alma, Bruxellando. Allora, ho raccontato qualcosa di te proprio mentre ti introducevo qualche minuto fa, però sono curiosa di sapere proprio dalla tua voce quali sono le tue origini artistiche e quando hai iniziato a interessarti alla musica. Ma nel senso che già a 12 anni scrivevo canzoni e a 13 ho fatto il mio primo provino, per cui ho veramente iniziato presto. Sono cresciuta con grandissime voci, in particolar modo Jordi, Alanis Morissette, Doriamo, Carmen Consoli, E poi invece mi sono avvicinata alla musica indipendente italiana, per cui Verdena, Serato, La Cruz, eccetera, eccetera. E questo ha fatto sì che io crescessi un po' tra due scuole di pensiero, che sono quella molto molto pop e quella tanto tanto rock. E il mio studio si sente tantissimo anche il manuale di istruzione. Il mio percorso è stato lunghissimo, perché appunto dai 13 anni e infine l'ultimo 2 anni fa con la mia attuale etichetta discografica Bene, quindi mi sembra di capire che il tuo è stato un percorso comunque abbastanza ricco, nel senso che eri in Italia, poi dopo hai deciso di vivere per un momento all'estero, dopodiché poi sei tornata in Italia. Quali sono state le tue impressioni durante questo tuo soggiorno, in questo caso inglese, rispetto al modo di far musica? Che cosa ti ha colpito di più? all'Italia, per esempio, c'è tanta curiosità, c'è tanta voglia di investire nella musica che non sia solo quella appunto pop, quella commerciale, quella più semplice, papà, insomma, sì, appetibile, diciamo, rispetto al rock. Quindi ho notato tantissima apertura, ecco, in Italia oggi è molto più difficile, nonostante poi la rete ci permetta di farci conoscere più facilmente, che è poi quello che è successo a me, devo la maggior parte del mio successo a YouTube praticamente, è quello che ha fatto il salto con il nome nell'ultimo anno. Per il resto, appunto, tantissime curiosità rispetto all'Italia, veramente tanto. Oggi guardiamo tanto ai talent, no? Alla televisione. Questo è un errore che comunque stiamo cercando di evitare. In tempi l'italiano ha preso un po' il sopravvento, quindi abbiamo visto nomi meno televisivi in classifica, nelle classifiche musicali. È importante perché è una domanda che devi sapere che nelle ultime puntate, contrariamente al solito, perché Bruxelles è un po' più un'emissione soprattutto letteraria, però nelle ultime settimane ho incontrato giovanissime cantanti, tra l'altro, quindi insomma giovanissime proprio come te, e parlando è nata proprio spontaneamente una domanda proprio sullo stile e sull'identità. Quindi ciascuna mi raccontava che era molto importante raggiungere da un lato un proprio stile e dall'altro una propria identità. Quanto è importante questa dimensione anche per te? È fondamentale. Io per anni ho combattuto contro, sono stata divisa tra lo stile e l'identità, nel senso che chiaramente cresci seguendo uno stile che può essere appunto quello di una console magari, no? Però poi finisci per perdere la tua identità, perché magari ti immedesimi troppo in quello stile lì. Quindi, trovare l'identità è fondamentale ed è decisiva, nel senso che quando ne hai una ed è la tua e sei sincera, vieni conosciuta, vieni riconosciuta e quindi è come dire, funzioni in qualche modo, non c'è dubbio che qualcuno ti scambi. Questo è quello che è successo per esempio a me negli ultimi anni, nell'ultimo anno, perché ho fatto il lavoro grossissimo su di me, in cui ho trovato la mia personalità e quindi la mia identità e oggi nel mio piccolo Levante ha un'identità propria e sono riconoscibile. Quindi che cos'è per te la musica? La musica per me in primis è un diario segreto, poi in realtà faccio leggere a tutti. Io nasco facendo musica per un bisogno personale, veramente mi seguo da piccolissima perché dopo un grande trauma della perdita di mio papà a 9 anni, la prima cosa istintiva veramente è stata quella di cantare e scrivere e mettere, come dire, in qualche modo buttare tutto il mio dolore nero su bianco, come dicevo. Per cui nasce proprio la musica, nasce proprio con l'esigenza di buttare via qualcosa, di liberarmi di un dolore o di una felicità. Così ho iniziato a fare musica e oggi continuo ad essere questo fortunatamente, cioè non è cambiato il mio modo di approcciare alla scrittura e alle melodie. Cosa conta per te? Più il testo o la musica, o più la musica e il testo, oppure si equivalgono? Diciamo che si equivalgono, spesso sono molto più profonda nella ricerca dei testi e altre volte invece vivo la musica in base alle cose che sto raccontando. Di solito quando sono più felice la musica è più interessante delle parole perché magari il testo è più leggero, ecco. E quando sono più triste chiaramente mi riverso tutto sul testo e riesco a diventare un po' più profonda, ma non è detto che sia positivo, ecco. Assolutamente. E ho ancora un paio di curiosità. Tra le tue esperienze, le tue partecipazioni a livello artistico, quali ricordi con più soddisfazione? Una o più di una, magari? Ma a livello artistico una cosa che in realtà non si sa molto, che però mi ha gratificato tantissimo, mi ha inorgoglita, io sono stata ospite ad uno spettacolo di Fiorello al Teatro Regio di Torino, che è uno dei teatri più importanti d'Europa, ed è stato veramente, veramente emozionante e mi ha gratificata tantissimo. E poi, devo dire che è stato un anno di concerti fenomenali. Veramente non mi aspettavo una risposta così positiva da parte del pubblico e invece sono veramente arrivate grandi, grandi cose. Però ecco, quella che porto dentro è il Teatro Regio di Torino. Bene, bene, bene. E parlando invece proprio di musica, quindi veniamo proprio alla tua produzione musicale, come nasce Manuale di Istruzioni? Manuale di Istruzioni nasce 3 anni fa da una canzoncina, riesco a trovare appunto quello che, come prima ti dicevo, la mia identità, dalla Scatola Blu, che è questo brano di 3 versi, 3 accordi, proprio la semplicità assoluta. Percorro questa strada in cui inizio a raccontare quelli che sono i miei errori, però quelle cadute dopo le quali mi sono comunque rialzata, quindi canzoni dove dico ok, c'è questa cosa che un po' mi ha distrutto, però comunque c'è quel spirale di luce in fondo al fondo. Sono 12 tracce di una crescita personale dove racconto una serie che sono diventate, sono fondamentalmente diventate i miei gradini per salire sempre più in alto, quindi non mi sono lasciata, come dire, soffombere da questi sassi enormi. E per il resto invece a livello tecnico mi sono affidata a un grandissimo amico, nonché bravissimo musicista e cantautore torinese, che si chiama Bianco, Alberto Bianco, e con lui abbiamo vissuto questi brani, per cui dalla mia partenza, l'idea di partenza che è quella di appunto la chitarra, tutto molto intimo, suoni quasi casalinghi, quasi casalinghi, siamo arrivati a delle batterie che esplodono, distruzioni di chitarre, e quindi poi alla fine la mia discussione è proprio la forma che fondamentalmente doveva prendere, dove era un po' più scritto. Per i nostri amici all'ascolto, per gli ascoltatori di Radio Alma e di Brussellando, c'è un brano in particolare che vorresti dedicare loro questa sera? No, mi piacerebbe tanto dedicarvi un brano che del mio disco, dici? Sì, certo, sì. Ok, un brano che dicevo fosse in realtà il primo singolo del disco, invece non è neanche uscito come singolo mai, perché mai, però io la amo particolarmente e si intitola Cuori d'artificio. Bene. Faremo in modo, sto già guardando il regista, vediamo se riusciamo a recuperarlo, magari durante la trasmissione riusciamo anche a trasmetterlo. Pensi di suonarlo qui a Bruxelles, così magari se non riusciamo noi questa sera verranno numerosi alla Piola Libri questo giovedì alle 18.57? Assolutamente sì, facciamo tutta la scaletta e magari anche qualche successo di qualche cover, vediamo. Levante, come sai il tempo in radio è assolutamente tiranno e siamo verso la fine. C'è un messaggio oppure c'è qualcosa che vorresti aggiungere che non ti ho chiesto e che vorresti indirizzare ai nostri amici all'ascolto? Ma mi sento oggi più che mai di dire, come tra l'altro faccio sempre e spesso ripeto a me stessa, siate coraggiosi per i vostri sogni. Questo mi sembra essere un messaggio veramente straordinario e io spero che possa essere accolto positivamente dal maggior numero di persone che questa sera stanno ascoltando Radio Alma e Brussellando. Vi ricordo quindi che Levante sarà tra qualche giorno a Bruxelles, quindi dopodomani, giovedì alle 18.57, ingresso gratuito, quindi non avete proprio nessuna scusa per non partecipare. Tutto questo alla Piola Libri. Levante, noi ti ringraziamo. Grazie, un abbraccio forte. E speriamo di incontrarci proprio giovedì. A prestissimo allora. A presto! Cari amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui, Maria Dia ai microfoni, questa puntata estremamente ricca di Brussellando, e avrete potuto notare che è una puntata ricchissima di eventi. Ci eravamo lasciati con un evento dedicato ai bambini, continuiamo con un festival di avventure musicali per l'appunto dedicato ai più piccoli. Mi riferisco a Big Bang, che è un festival che per il 5° anno si svolge proprio al Palais des Beaux-Arts, domenica 2 novembre, quindi prossimamente tra 2 settimane, ed è un festival musicale dedicato ai bambini. È un programma ovviamente ricco di concerti, installazioni e atelier per scoprire non solo i grandi musicisti belgi, ma anche quelli stranieri. Se volete avere maggiori informazioni, consultate direttamente il sito del Beaux-Arts, beauxarts.be. Le tariffe sono molto modiche, prezzo normale 7 euro, invece per i più piccoli 5 euro. Ovviamente il pubblico che potrà apprezzare maggiormente il festival sono soprattutto i bambini tra i 3 e i 6 anni e quelli delle scuole primarie, quindi di più di 6 anni, nonché ovviamente le rispettive famiglie. E sempre restando in tema di famiglie e restando alla Beaux-Arts, sapete che c'è una bellissima mostra dedicata a Rubens e il prossimo 16 novembre ci sarà proprio una giornata dedicata all'eredità di Rubens che potrà essere scoperta da dalla famiglia, quindi da famiglie anche con bambini, perché spiegare l'arte ai bambini, soprattutto quando si parla di un argomento così interessante come sensazione e sensualité, diciamo in francese, sicuramente non è semplice spiegarlo ai bambini, ma il Beaux-Arts, che come sapete è sempre all'avanguardia, ha deciso proprio di dedicare una giornata quindi alle famiglie e in questo modo anche i bambini potranno scoprire quella che è l'arte di Rubens. La giornata inizia alle ore 10 presso il Beaux-Arts, i dettagli più o meno restano come quelli di prima, quindi potete consultare il sito internet beauxarts.be per avere maggiori informazioni e il prezzo normale è ovviamente di 14 euro, che è il prezzo dell'esposizione, invece per i più piccoli è di 6 euro. Chiaramente, insomma, potranno partecipare tutti coloro i quali sono interessati soprattutto all'arte di Rubens, che è comunque a mio avviso è uno degli artisti più interessanti. Sono molto contenta che proprio qui a Bruxelles se ne possa riparlare. Amici, eccoci qui in questa lunga e ricca puntata di Bruxellando, tra ospiti musicali e una ricchissima agenda culturale. Tuttavia, per respirare, per prendere un po' di fiato, per riposare la mia voce, questa sera Dani M ha preparato per voi qualche suggerimento di lettura in attesa del Librangolo, che arriverà quanto prima. Dani M questa sera vuole suggerirvi due romanzi che sta leggendo proprio in questi giorni. Quindi Dani M, raccontaci che cosa ti ha colpito e soprattutto di che cosa ci vuoi parlare questa sera, perché sapete che Dani M parla poco, di tanto in tanto si diverte, soprattutto da dietro il vetro a interrompere o comunque a far cenni per dire il tempo va, il tempo scorre, sbrigatevi perché dobbiamo dire tante cose, infatti ha ragione. Quindi questa sera magari invertiamo i ruoli e sarò io a dire a Dani M di essere conciso, perché come sapete il tempo in radio è proprio tiranno. Grazie Mary D, finalmente Dani M che fremeva ha voglia di raccontarvi un po' di un paio di libri che sta leggendo, per cui questa sera Dani M farà le veci del Librangolo. Spero che Imola non me ne voglia, ma dai, facciamo questo esperimento questa sera, perché ho sotto mano due libri che secondo me sono tra i protagonisti della rentrée letteraria italiana, entrambi editi da Einaudi. Si tratta del 1915-1918 Storia di uomini, donne e famiglie di Aldo Cazzullo, il cui titolo è La guerra dei nostri nonni, e il secondo libro è Dura solo un attimo la gloria di Dino Zoff. Due libri decisamente diversi sia per il tema di cui trattano sia per lo stile che vi è insomma con cui si è approcciato lo scrittore nello stendere il libro, ma di cui vi voglio parlare perché entrambi mi hanno veramente colpito. Aldo Cazzullo lo conosciamo già perché è stato già protagonista di Bruxellando l'anno scorso, ma con il libro penso che fosse Basta piangere. Questa volta invece di concentrarsi sull'attualità italiana, Cazzullo ripercorre episodi della prima guerra mondiale, a 100 anni dalla prima guerra mondiale. Anche qui in Belgio stanno fioccando giustamente le ricelebrazioni storiche, i ricordi e vari eventi, e questo giustamente sta avvenendo anche in Italia, anche se magari con meno enfasi perché l'Italia entrò in guerra sicuramente dopo del Belgio. Ciononostante, Cazzullo ha scritto questo libro cercando di raccontare il conflitto alternando storie di uomini e di donne, le storie di fatto delle famiglie italiane dell'epoca. E perché in effetti la Prima Guerra Mondiale fu l'inizio della libertà per le donne, che dimostrarono di poter fare le stesse cose degli uomini mentre questi uomini erano al fronte, cioè lavorare in fabbrica, guidare i tram, laurearsi, eccetera, e al tempo stesso alterna lettere, diari di guerra, testimonianze anche inedite di coloro che purtroppo dovettero partecipare loro malgrado al primo conflitto mondiale. È un romanzo veramente che io consiglio per tutti coloro che sono appassionati o che vogliono rivivere in un certo senso a 100 anni, diciamo, vivere appieno le celebrazioni dai 100 anni dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Naturalmente non c'è nessun revanchismo, ma piuttosto quanto delle storie che ci fanno recuperare anche le sofferenze, ma i cambiamenti epocali che portò a quella guerra, quindi non solo la guerra, ma anche tutto quello che portò, diciamo, vi è stato attorno a questa guerra, anche come cambiamento della nostra società. Quindi sofferenze, straordinaria forza morale anche sia degli uomini che delle donne di quel tempo, e ci ricorda quale grande patrimonio hanno lasciato a noi italiani di oggi, i loro nipoti. Giustamente i loro nonni. Il secondo romanzo, se vogliamo chiamarlo così, perché entrambi sono due libri che non sono libri né di attualità stretta né saggi, ma non sono veri e propri romanzi. Mi viene a definire romanzi perché non riesco a categorizzarli in un tipo diciamo già precostituito. Ma secondo lo libro di cui voglio parlare è il libro di Dino Zoff, quindi dura solo un attimo la gloria, dove Dino Zoff di fatto racconta la sua vita. È stato per me la cosa che mi ha colpito all'inizio, che mi ha anche attirato verso questo volume, è stato l'autore, nel senso che Dino Zoff, conosciutissimo portiere della nazionale italiana, campione del mondo nel 1982, lo conosciamo tutti per il suo carattere schivo, forse anche per la poca voglia di essere protagonista sotto i riflettori dei media, ma nonostante questo ha deciso di scrivere un romanzo e raccontare la sua vita. Romanzo, libro, insomma, veramente dove vengono ripresentati alcuni aneddoti importanti sulle vittorie, le sconfitte, anche la sua parentesi di allenatore, di dirigente sportivo. Mi ha colpito perché non mi sarei mai aspettato di trovare un Dino Zoff così bravo nella parola, nell'utilizzo della parola, in questo caso della parola scritta. Proprio perché era un personaggio che non era abituato o non era a suo agio al 100% davanti al microfono. Per cui io vi consiglio veramente questi due volumi, li ricordiamo, dura solo un attimo la gloria di Dino Zoff, edito da Mondadori, mi scuso, non da Einaudi, da Mondadori. E il secondo volume è di Aldo Cazzullo, La guerra dei nostri nonni, 1915-1918, storie di uomini, donne e famiglie. Il fatto di aver parlato di Dino Zoff mi ha fatto accendere una lampadina al volo, per cui facciamo un inciso che non ha niente a che vedere con i romanzi, ma è sempre legato allo sport. Un mese fa sicuramente avrete trovato sul blog di Bruxellando una notizia riguardo a un torneo di calcio tra le varie associazioni e club di tifosi qui a Bruxelles, la Coppa della Presidenza, e tenevo appunto a ricordarvi che questo torneo è tuttora in atto, che esiste un sito internet dove potete trovare tutte le informazioni, i match, i risultati, classifica, marcatori, eccetera, che è coppadellapresidenza.eu, e invito tutti coloro che sono amanti di calcio, ma dello sport in generale e anche dello stare insieme, di andare a partecipare, a vedere queste partite e a divertirsi con i giocatori. Perché è vero, c'è sempre un po' di agonismo, ci sarà sempre un po' di agonismo, ma alla fine ci si ritrova tutti dietro una buona birra belga. Per cui io vi ringrazio e ricedo la parola a Maridì che conclude questa frizzante trasmissione. Care amiche, cari amici, bentrovati, bentornate di questa ricchissima puntata di Bruxellando che, come vedete, continua in questo suo viaggio davvero interessante e ricco di contenuti sia culturali che musicali, giacché queste prime puntate di Bruxellando hanno visto protagonisti veramente la musica italiana qui a Bruxelles. Gli appuntamenti musicali continuano perché ci sono altri ospiti che dall'Italia verranno proprio qui ad esibirsi a Bruxelles, ma avremo modo di parlarne nelle prossime settimane. Io ringrazio tutti voi, ringrazio coloro i quali ci hanno ascoltato per questa bella puntata di Bruxellando. Saluto Levante, che è stata la protagonista di questa nostra puntata insieme questa sera. Saluto Daniemme in regia. E auguro a tutti voi una splendida settimana in compagnia di Radio Alma di Bruxellando e della nostra straordinaria musica italiana. Buona settimana a tutti da Maridì. A presto!